figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata, buona domenica a tutti da Valentina Furlanetto, Haiti, Rosarno, Goma in Congo. Di tutto questo abbiamo parlato qualche giorno fa con Margherita Boniver, inviato speciale del Ministero degli Esteri per le situazioni di emergenza umanitaria e presidente del Comitato Schengen. La nostra chiacchierata sui diversi fronti caldi di attualità della nostra cooperazione parte dalla situazione in Congo, dove Margherita Boniver è stata ai primi di gennaio. L'Italia è presente in un paese poverissimo come la Repubblica Democratica del Congo, che ha raggiunto il 168esimo posto tra i paesi più poveri del pianeta e malgrado il fatto che abbia delle immense ricchezze naturali e minerarie. La cooperazione italiana soltanto nel biennio 2008-2009 ha investito quasi 7 milioni di euro distribuiti fondamentalmente su progetti sanitari di soccorso ai rifugiati per l'istruzione e la riabilitazione di piccoli centri di medicina avanzata come un reparto di neonatologia che ho potuto inaugurare nella regione del Kivu a confini con il Ruanda. Lo scopo della mia missione è stato quello di portare una testimonianza e soprattutto fare una ricognizione degli aiuti italiani sia bilaterali che multilaterali per una situazione che ha provocato oltre 5 milioni di morti negli ultimi anni a causa soprattutto delle moltiplicate delle guerre intertribali che si sono svolte su quel territorio e che a loro volta hanno provocato quasi 2 milioni di profughi. Nel frattempo per fortuna sono calati drammaticamente quest'ultimo dato e adesso ci saranno circa 600 o 700 mila distribuiti nei vari campi sull'immenso territorio congolese e non da ultimo accendono un riflettore sulla condizione della donna all'interno di questa situazione di immensa fragilità che colpisce appunto le popolazioni vittime della guerra civile. Mentre lei era in Congo, in Italia ci sono state fortissime tensioni a Rosarno, in Calabria, fra gli abitanti della piana di Gioia Tauro e proprio gli immigrati braccianti che provengono dall'Africa, alcuni proprio dal Congo. Che idea si è fatta della situazione a Rosarno? So che c'è anche stata, quindi volevo capire qual è il suo punto di vista. Ma che c'è qualche cosa di francamente ancora di poco comprensibile, perché è difficile per noi che non viviamo a Rosarno capire come sia stato possibile l'accumularsi di tanto sfruttamento di lavoro nero da parte di un caporalato feroce, caporalato che non è soltanto italiano, ben inteso, nei confronti di questi extracomunitari che non sono affatto tutti clandestini, molti erano lì in modo regolare e hanno ridotto queste persone praticamente ad uno stato di schiavitù. Bastava vedere le immagini di dove erano alloggiati per capire l'immenso degrado in cui tutta questa umanità era costretta a vivere. E il fatto che nessuno avesse reagito prima dei terribili fatti dell'inizio gennaio insomma pone moltissimi interrogativi. Mi auguro che una volta superato il momento emergenziale si possa veramente fare luce la più completa possibile su tutti gli aspetti che hanno portato a questa crisi e che sono francamente molto molto inquietanti. Sono felice che si sia proceduto all'arresto di persone che si sono macchiate di reati di violenza e di devastazione sia extracomunitari che italiani. In questa bruttissima pagina di storia di Rosarno, ma direi italiana. Nel frattempo un terribile sisma ha colpito Haiti. Qual è l'impegno dell'Italia? Ma certamente la cooperazione italiana risponderà immediatamente a questa chiamata disperata in un paese forse in assoluto più povero di tutto il pianeta. E nella capitale haitiana stanno arrivando aiuti da ogni parte del mondo. L'ONU ha annunciato di aver ricevuto promesse di aiuti alla popolazione colpita dal terremoto pari a 268 milioni di dollari. Anche l'Italia si è attivata, come dicevamo, ma intanto ad Haiti sale la rabbia tra la popolazione locale per la carenza di coordinamento da parte delle autorità locali. Esasperati, gruppi di superstiti nei giorni scorsi hanno eretto nella capitale blocchi stradali utilizzando anche i cadaveri delle vittime del sisma. Su questa situazione abbiamo sentito Maria Copani, desk officer Haiti del CESVI. Dal punto di vista, diciamo, sanitario e di pericolo di infezioni, non ci sono epidemie di colera in genere ad Haiti. L'unico problema potrebbe essere il tifo, che è abbastanza diffuso, però in ogni caso non è trasmettibile. Il problema è anche logistico, purtroppo, perché sono in mezzo alla strada e quindi comunque c'è un impatto sia fisico che psicologico notevole per le persone che in qualche modo devono continuare ad operare lì, e quello è il reale problema. Sembra che una delle preoccupazioni sia che nella disgregazione del governo lì, già abbastanza fragile, non ci sia un coordinamento. È una preoccupazione anche vostra? Il problema ovviamente adesso è di ordine pubblico, quindi sostanzialmente militare. Ovviamente se si opera in una situazione in cui c'è sciacallaggio, in cui non hai certezze di poterti muovere, non hai, se in una situazione di insicurezza anche del tuo personale, che può subire dei danni fisici, che può avere ulteriori problemi, allora è ovvio che operare in una situazione del genere è ancora più problematico. Il coordinamento, diciamo, della risposta umanitaria, quindi delle ONG e delle UN, dell'Unione Europea, è, diciamo, un problema che potrebbe insorgere nel giro di una settimana non si stabilizza la situazione. Da quello che noi abbiamo saputo e avremo conferma in 24 ore, sono le Nazioni Unite quella ad avere la lead, quindi a condurre l'emergenza umanitaria. E chi meglio dei terremotati dell'Aquila può capire la situazione che stanno vivendo gli abitanti di Haiti? Per noi si è riaperta una piaga, ha detto così il sindaco dell'Aquila, Cialente. Passata la prima fase di emergenza e le prime necessità, il sisma ha effetti duraturi a lungo termine sulla vita emotiva e psichica dei terremotati. Ne sanno appunto qualcosa gli aquilani. Analizzare quali sono le cicatrici profonde che si portano dentro i bambini è l'obiettivo di un primo studio sul campo, mai realizzato prima nel mondo, degli effetti sulla psiche dei bambini vittime di terremoti. La ricerca, che è stata annunciata in questi giorni, coinvolgerà 7.000 piccoli abruzzesi. Avrà il coordinamento scientifico dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, sarà portata avanti dall'ordine dei ministri degli infermi camilliani e a sostenere il progetto ci sarà la Caritas. In attesa dei risultati di questo studio abbiamo parlato con Vittorio Sconci, direttore del Centro Salute Mentale dell'Aquila, per capire appunto quali sono i riflessi sulla mente delle persone dopo un terremoto. Devo dire che questa ricostruzione, al di là dei punti dei punti neri, no? Oppure delle cose discutibili, è una ricostruzione che, anche se a mio giudizio troppo lentamente, sta ripartendo. E la cosa è accettata dalle persone in maniera abbastanza, non dico naturale, ma insomma senza particolari scontri e senza particolari paure, anche perché bisogna ammettere che la Protezione Civile ha puntato molto su questo rapporto diretto e rassicurante nei confronti della popolazione. Da un lato è stato molto positivo perché nell'ambito del trauma, nell'ambito della situazione critica, si è intravista sempre una prospettiva. Io nel mio piccolo, volevo accelerare il processo e rientrare in situazioni più possibili vicine alla normalità, ho avuto la disponibilità totale di mezzi, di strumenti da parte della Protezione Civile, e questo è stato rassicurante per me in un settore specifico come quello della malattia mentale, ma più o meno è un sentimento percepito da tutta quanta la popolazione, cioè non ci siamo mai sentiti abbandonati, e quindi questo sentimento di sicurezza penso abbia influito anche sulla psicologia delle persone, che di fronte a una prospettiva rassicurante non ha vissuto con grandissima angoscia gli stati d'animo negativi dovuti alle perdite. Lei con tutto il personale del centro di salute mentale dell'Aquila, dopo la distruzione fisica degli edifici dove lavoravate, avete deciso di mantenere i pazienti all'interno della tendopoli, quindi di non trasferirli in un centro fuori l'Aquila dove secondo lei si sarebbe ricreato un piccolo manicomio. Nel frattempo però le cose sono cambiate, dove sono i pazienti a 9 mesi di distanza dal sisma? Dopo la prima fase nelle tende abbiamo accelerato il ritorno in altre strutture. Erano 2 appartamenti agibili per 10 pazienti. Questi 10 pazienti sono rientrati già nel mese di maggio. Per gli altri, entro la fine di luglio, abbiamo organizzato tutta una serie di case prefabbricate che sono dislocate all'Aquila e a Paganica. Per quello che riguarda gli uffici, abbiamo quindi il centro di salute mentale, il centro diurno, le strutture riabilitative. Anche in questo caso abbiamo utilizzato container dove ormai il lavoro si svolge a pieno ritmo, nella perfetta normalità. È soddisfacente questa situazione? Ma io penso di sì. Io penso, cioè, una delle scelte che abbiamo fatto, che voglio sottolineare, non prendere strutture stabili, perché un fenomeno che per me è disdicevole in questa città, sta nascendo una nuova urbanizzazione, un po' folle, no? Noi come Dipartimento non abbiamo partecipato a questa urbanizzazione folle, abbiamo tutti i container, tutte casette che nel momento in cui riavremo le vecchie case, avremo i nuovi appartamenti, saranno demolibili e quindi non avremo minimamente inficiato l'urbanizzazione del territorio. Qualcuno negli ultimi mesi ha criticato il fatto che i malati siano tornati ad abitare nella zona dove sorgeva un tempo il vecchio manicomio. È soltanto una questione logistica oppure una questione anche di fatto? Questo qui è stato un equivoco di fondo, no? Allora, 4 delle case, delle case famiglia, più il centro di salute mentale, più il centro diurno, sono localizzati dove era prima l'ospedale psichiatrico. Il nostro spazio termina qui, vi do appuntamento a domenica prossima sempre alle 14:15 e sempre sulle frequenze di Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'augurio di una buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto.